24. La storia. Con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario. Castro era un eroe rivoluzionario romantico. Era alto, era virile, aveva un enorme carisma. Un uomo dall'enorme carisma, ma anche una figura molto controversa. Oggi a Mix24 vogliamo raccontare la storia di Fidel Castro. La storia di un mito che inizia il 2 gennaio del 59 con la marcia trionfale sull'Havana. È l'inizio di una leadership incontrastata che durerà quasi mezzo secolo. Ma come è iniziata l'ascesa di Fidel Castro? Nel 1945 Castro è uno studente di legge all'Università dell'Havana e diventa subito un leader studentesco. Promuove scioperi, dimostrazioni e viene addirittura coinvolto nelle indagini sull'omicidio del capo di un gruppo avversario. All'università Castro incontra anche la madre del suo primo figlio, 19 anni, studentessa di filosofia all'Università dell'Havana, Mirta Diaz Balart, proviene da un'importante famiglia cubana. 12 ottobre 1948, Fidel Castro e Mirta Diaz Balart si sposano. La coppia parte per una lunga luna di miele a New York, dove resterà per oltre 3 mesi. Tornati dalla luna di miele, Fidel e Mirta si sistemano a Havana. Qui Castro apre un piccolo studio legale. La vera passione travolgente per Fidel è la politica. 1952. I cubani attendono con trepidazione le libere elezioni, la quarta consultazione democratica da quando è stata approvata la nuova Costituzione del 1940. Il giovane avvocato Fidel Castro coglie l'occasione al volo. Si candida per un seggio al Congresso tra le fila del partito ortodosso, che propugna un governo responsabile e la fine della corruzione. All'avvicinarsi della data del voto, Fidel Castro ha sempre più concrete probabilità di vittoria. Ma il 10 marzo 1952, il generale Fulgencio Batista guida un colpo di stato militare. Il sogno di una vera democrazia a Cuba e le aspirazioni politiche di Fidel vanno in fumo. Il generale Batista ha i microfoni di tutte le stazioni radio del paese. Silenzio! Silenzio! Mi rivolgo al popolo di Cuba, dalla città militare, dove sono stato costretto a tornare, spinto dall'evolversi degli eventi. Il golpe di Batista aprì un vaso di Pandora, creando in quel momento le condizioni ottimali, perfette, per l'ascesa di un eroe rivoluzionario. Le istituzioni non avevano più nessuna importanza. Quello che contava era l'audacia. Serviva un individuo capace di azioni violente. Fidel raccontava un aneddoto. Si trovava sulla scalinata dell'università senza un soldo, il matrimonio a rotoli, senza lavoro. E a quel punto disse a se stesso: c'è bisogno di una scossa. Devo creare un'organizzazione, devo fare una rivoluzione. Fu in quel momento che decise di dare l'assalto alla caserma Moncada. Il piano di Castro è semplice: con un manipolo di uomini scelti prendere la fortezza della Moncada, la seconda caserma più grande di Cuba, impossessarsi delle armi e provocare una sollevazione popolare in tutta l'isola. Sono le 5:15 del mattino del 26 luglio del 53. È l'inizio ufficiale della rivoluzione a Cuba, ma quell'assalto si rivelerà un fallimento. Più che un fallimento, è un massacro. 8 ribelli vengono uccisi, 12 feriti, più di 60 fatti prigionieri, torturati e giustiziati. Fidel Castro viene catturato 7 giorni dopo. Solo l'intervento dell'arcivescovo di Santiago gli risparmia la vita. Nei giorni che seguono l'assalto, Fulgencio Batista ordina che per ogni soldato ucciso alla Moncada siano giustiziati 10 civili. Ma per il dittatore è un boomerang politico. Le foto degli oppositori politici trucidati suscitano il raccapriccio dell'intero paese e trasformano in un eroe l'uomo che ha guidato la fallita rivolta. Ancora Marifeli Perez stabile. La repressione delle forze di Batista fu talmente dura con tutti quei giovani, in gran parte ragazzi, uccisi e brutalmente seviziati, al punto che il popolo cubano si sentì scosso nel profondo. Durante il processo, Fidel polarizza su di sé l'attenzione di tutta Cuba. Castro sceglie di difendersi da sé e la sua arringa difensiva entra subito nella leggenda. Condannatemi, non ha importanza. Ci penserà la storia ad assolvermi. Fidel e il suo fratello più piccolo, Raul, vengono condannati a 15 anni di prigione e rinchiusi nel carcere dell'isola dei Pini. Nell'aprile del 1955 Fulgencio Batista, il dittatore dell'Havana di Cuba, concede un'amnistia generale. Dopo 22 mesi di reclusione, Fidel Castro, suo fratello Raul sono finalmente liberi. Castro è deciso a questo punto a riprendere la lotta rivoluzionaria e allora si trasferisce in Messico, da dove può organizzare il suo clamoroso ritorno a Cuba. Il 2 dicembre del 56 un nucleo di 82 rivoluzionari raggiunge Cuba a bordo del Granma. Ma attenderli ci sono i soldati di Batista. Solo 18 componenti del gruppo riescono a mettersi in salvo. Tra loro Fidel Castro, suo fratello Raul e un medico argentino, Ernesto Guevara, detto il Che. Saranno loro a cambiare per sempre le sorti di Cuba. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, stiamo raccontando la storia di Fidel Castro. Il 2 dicembre del 56, con 82 rivoluzionari, Castro è sbarcato a Cuba. I soldati del dittatore Battista ne catturano molti e a iniziare la rivoluzione restano solo in 18 uomini, tra questi un giovane argentino dal nome Ernesto Guevara. Un anno dopo, nel febbraio del 57, i ribelli compaiono sulla prima pagina del New York Times. In una serie di 3 articoli, Herbert Matthews, un veterano delle corrispondenze di guerra, lancia la leggenda di Fidel Castro. Il giornalista scrive: un omone grande e grosso, 1,80 m, robusto, la pelle olivastra e la barba ispida. In testa ha idee molto chiare: libertà, democrazia e giustizia sociale. Siamo nella Sierra Maestra, 300 chilometri di giungla fino alla costa meridionale. Seguendo le orme di Matthews, una troupe della CBS parte per un altro reportage. I ribelli della Sierra Maestra. Questa è la loro storia. Ora le dico cosa è successo. Batista non ha voluto ammettere la sua incapacità di sconfiggerci. Spera di ottenere con le menzogne ciò che non riesce ad avere con la forza. Alle volte dichiara che sono morto, altre volte che sulla Sierra Maestra non c'è anima viva. Poi però non permette a nessuno di venire qui tra le montagne. Così lo storico William Leogrande definisce il dittatore Batista. Batista era un corrotto e un oppressore. Alla fine ad opporsi al regime erano praticamente tutti gli strati della popolazione. Sui monti della Sierra Maestra, Fidel Castro diventa rapidamente il simbolo della resistenza contro Batista. È qui, tra i contadini, che nasce l'avventura della guerriglia castrista. Anni dopo, Celia Sanchez, amica e confidente di Fidel, ricorderà con nostalgia: è stato il periodo più bello. Non saremo mai più felici come allora. membri del movimento clandestino urbano e leader dei partiti d'opposizione si inerpicano nella Sierra per incontrare Fidel e discutere i dettagli di un futuro governo di coalizione. Il manifesto della Sierra Maestra propugnava una repubblica democratica, un ritorno alla Costituzione del 1940. Libere elezioni. Ma non credo che Fidel abbia firmato quel documento pensando che vi si sarebbe attenuto. Era la voce di Carlos Franchi, all'epoca direttore di Revolution. Il manipolo di guerriglieri sopravvissuto alla disfatta del Gram diventa un esercito ribelle che Fidel comanda con un pugno di ferro. Così il rivoluzionario Huber Matos. Ricordo la volta in cui Fidel rimproverò un combattente della guerriglia. Fu così brutale, così offensivo, così umiliante che la notte nella mia hamaca pensai: che succederà in futuro? Che succederà? Ma poi vedevo Camilo, il Che e gli altri comandanti che obbedivano a Fidel, lo ammiravano. E allora mi chiedevo: sono l'unico ad avere questi dubbi? Fidel Castro dunque comanda i suoi uomini con un pugno di ferro, ma intanto i suoi ribelli respingono ogni tentativo dell'esercito di Batista di espugnare la Sierra Maestra. In breve tempo il popolo di Cuba è tutto con loro, siamo all'assalto finale. Agosto 1958, le forze ribelli lasciano le montagne e si sparpagliano per tutta l'isola di Cuba. Fidel ordina a Camilo Cienfuegos e a Che Guevara di dirigersi a ovest. Huber Matos parte alla conquista di Santiago de Cuba. A Santa Clara, Che Guevara fa saltare in aria un treno blindato e prende possesso della città. L'esercito di Batista, demoralizzato, si dissolve. Il 31 dicembre 1958, per i cubani è un capodanno all'insegna dell'incertezza. All'alba del 1 gennaio, Fulgencio Batista fugge da Cuba con 180 suoi fedelissimi, con una fortuna personale di oltre 100 milioni di dollari. Gennaio 1959. Fidel Castro e il suo esercito ribelle partono da Santiago de Cuba alla volta della Habana. Una marcia trionfale di quasi 1000 chilometri lungo la strada che taglia Cuba e che si concluderà l'8 gennaio. A ogni tappa Fidel tiene un discorso. Non c'è migliore scuola dell'esperienza. Trasmesse in diretta per radio e televisione, le sue parole raggiungono ogni angolo dell'isola. Si dice che lei ritenga esaurito il suo ruolo nella rivoluzione e che forse sta meditando di tornare alla vita civile, è vero? E se non è vero, tra quanto tempo pensa di poterlo fare? Il mio dovere nei confronti del popolo. Per il presente e per il futuro farò quello che è bene per il mio paese. Se per il mio paese fosse necessario per me rinunciare a qualsiasi carica, sarò ben lieto di rinunciare a qualsiasi carica. Anche perché in tutta sincerità non ambisco al potere o al denaro. Io desidero solo servire il mio paese. Bene. Come previsto dal manifesto della Sierra Maestra, il potere viene assunto da un governo ad interim che comprende tutti i gruppi d'opposizione. Le elezioni sono fissate a 18 mesi dopo. Ma è Fidel a detenere il vero potere, nel suo vecchio quartier generale nella Sierra, nell'appartamento di Celia Sanchez a El Vedado, in una casa sulla spiaggia a Cojimar. È qui che vengono prese tutte le decisioni più importanti. E una delle prime decisioni del governo rivoluzionario è l'istituzione di tribunali popolari. In meno di 3 mesi, oltre 500 batistianos, fedeli a Batista, vengono processati e giustiziati in pubblico. Quando la stampa internazionale parla di un bagno di sangue, Castro, irritato, compare in televisione a spiegare le sue ragioni. Lo scopo del raduno odierno è mostrare al mondo intero che tutti i cubani sono uniti nella vittoria della rivoluzione e sono favorevoli alle esecuzioni. Quando le strade erano disseminate dei corpi dei nostri giovani, quando i cortili delle caserme erano pieni di cadaveri, quando le nostre donne venivano violentate, i nostri bambini trucidati, quando la polizia entrava nelle ambasciate per assassinare i nostri connazionali, nessuno si è alzato a dire una parola contro Cuba! Un nuovo slogan risuona lugubre per Cuba. Pare donna, al muro. Febbraio 1959. Fidel ufficializza il suo ruolo di leader di Cuba e viene nominato primo ministro. Mai prima d'ora New York ha assistito a scene del genere alla Penn Station. Scene che solo il grande carisma di Castro poteva scatenare. Aprile 1959. Il primo ministro Fidel Castro arriva a New York, tappa di un giro di 15 giorni di visite ufficiali. Che si muove tra la folla. È giovane e idealista. Il suo fascino non è stato intaccato dall'accusa di aver scatenato un bagno di sangue a Cuba. Fidel, può dire qualche parola ai cittadini di New York che la vedono per la prima volta? Beh, sono molto felice di essere di nuovo qui. Ho tenuto fede alla promessa che sarei tornato dopo la vittoria della rivoluzione. Il 17 gennaio del 59 Castro dà inizio alla trasformazione rivoluzionaria dell'isola. Per prima cosa proclama la redistribuzione delle terre e Las Manacas, la tenuta della famiglia Castro, è il primo latifondo a essere confiscato. Lina, la madre di Fidel, è furibonda. Morirà poco tempo dopo senza aver mai perdonato il figlio. Ma per la maggioranza della popolazione la riforma agraria è un sogno che diventa realtà. 200.000 contadini diventano proprietari di quelle terre che un tempo lavoravano. Sentiamo Carlos Franqui, all'epoca direttore di Revolution. Nel 1959, vedere i ricchi, i borghesi, salutare i contadini che entravano a L'Avana e accoglierli a casa propria era fantastico. Era come se tutti avessero capito che era ora di mettere fine alle ingiustizie. Proveniamo forse dalle caserme dell'esercito? Suo fratello Raúl è ministro della difesa. L'amico Che Guevara dirige la banca centrale. Un avvocato poco noto, Osvaldo Dorticós, è presidente. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Nel primo anno di governo di Fidel Castro, le tariffe dei servizi pubblici sono scese drasticamente. Si è dato così inizio a progetti di opere pubbliche e il costo degli affitti è dimezzato. Di qui a breve gli studenti saranno mandati nelle zone di montagna per insegnare ai contadini a leggere e scrivere. Sentiamo Alcibiades Hidalgo, all'epoca segretario personale di Raúl Castro, e la giornalista Georgiane Guéillet. La mia generazione si innamorò di quella rivoluzione. Istruzione popolare, assistenza sanitaria, giustizia sociale. E poi Castro era molto affascinante. Riusciva a esprimere le sue idee in modo formidabile. Castro era un populista. Sapeva stare in mezzo alla gente. Era uno che, se andava a visitare una fattoria, era capace di avvicinarsi a una contadina, cingerla con il braccio e dirle: «Allora, sorella, come vengono su questi polli?» Per quanto fosse arrogante e avesse una personalità molto forte, con la gente ci sapeva fare. Era dotato di grandissima comunicativa. Sapeva come prenderla. Le donne amavano Fidel, erano pazze di lui. E soprattutto dopo la rivoluzione lo prendevano letteralmente d'assalto. Fidel non chiedeva mai informazioni sulle sue amanti, sulle sue donne. Come ogni leader carismatico, questo avrebbe intaccato la sua immagine. Lui doveva restare una figura mitica, distante. Per tutti Castro ormai è il leader massimo. Ha carisma, fiuto politico, è potente e molto determinato, ma non tutti condividono la strada che sta prendendo il governo. Tra questi c'è Huber Matos, un eroe della lotta sulla Sierra Maestra, un amico personale di Castro che è in disaccordo con la sua linea filomarxista. Già a marzo, su una rivista distribuita ai soldati dell'esercito rivoluzionario, vidi della propaganda filomarxista. Uno, due, tre articoli. C'erano le foto di Guevara e Raul che incontravano esponenti del Partito Comunista e mi dissi, beh, forse il governo stava seguendo un altro progetto. Con la riforma agraria Castro conquista l'appoggio delle masse dei contadini ma perde quello del ceto medio e della borghesia liberale. Huber Matos, governatore della provincia di Camagüey, critica il peso conquistato dai comunisti nel governo. Nella sua lettera di dimissioni scrive: Fidel, stai distruggendo il tuo stesso lavoro. Fidel giudica Matos un traditore ribelle ed ingrato e lo fa arrestare. Si trattò di un momento critico. Uno spartiacque in cui le forze radicali dicevano: questa è la direzione da prendere e nemmeno le persone che hanno combattuto al nostro fianco possono tirarsi indietro. Il destino di Matos sembra segnato. Raul Castro disse: giustizialo. Che Guevara era d'accordo, anche se poi cambiò idea. Io dissi: Fidel, non sei stato tu a dire che questa rivoluzione non avrebbe fatto come Saturno, che divorò i propri figli? E Fidel rispose: no, non lo giustizieremo, non dobbiamo trasformarlo in un martire. Erano le voci dello storico William Leogrande e di Carlos Franchi, direttore di Revolution dal 59 al 63. E infatti Huber Matos sarà solo il primo prigioniero politico di una lunga serie. A questo punto ad avere paura del nuovo leader di Cuba sono non soltanto i suoi oppositori interni, ma anche il suo potente vicino, gli Stati Uniti. In piena guerra fredda Castro infatti decide di avviare rapporti economici con l'Unione Sovietica. Questo significa che gli americani rischiano di perdere l'egemonia economica che hanno sempre avuto sull'isola di Cuba. Giugno 1960. A L'Avana arriva il primo grande carico di greggio sovietico. Castro chiede alle compagnie petrolifere americane presenti a Cuba di raffinare 1 milione di barili di greggio sovietico. Gli americani rispondono di no. Tra il 29 giugno e il 1 luglio il governo cubano nazionalizza tutte le compagnie petrolifere di proprietà statunitense. 4 giorni dopo, il governo americano minaccia di interrompere le importazioni di zucchero cubano. Castro risponde autorizzando l'esproprio di tutte le proprietà americane sull'isola. Che altro poteva fare il governo rivoluzionario? Tradire il popolo? Sarebbe stato così, sicuramente. Perché è proprio questo quello che avremmo fatto se invece di restare fedeli al nostro popolo fossimo stati fedeli ai grandi monopoli americani che sfruttavano l'economia del nostro paese. 26 settembre 1960. Di fronte all'Assemblea Generale dell'ONU, Castro attacca violentemente gli Stati Uniti, ostentando la nuova amicizia con il premier sovietico Nikita Khrushchev. Un mese dopo, l'amministrazione Eisenhower impone l'embargo contro Cuba. C'è un limite a ciò che gli Stati Uniti e il rispetto per se stessi sono disposti a sopportare. E quel limite è stato raggiunto. Il 3 gennaio 1961 Washington rompe i rapporti diplomatici con Cuba. Il nuovo presidente degli Stati Uniti, John Kennedy, dà il via libera al progetto di invasione di Cuba da parte degli anticastristi. Il 15 aprile del 61 la Casa Bianca autorizza gli esuli cubani a pilotare alcuni B-26 su Cuba per bombardare gran parte delle difese aeree di Castro. Gran parte, ma non tutta. Il giorno dopo, ad un raduno, Fidel Castro dichiara per la prima volta che la sua è una rivoluzione socialista. Castro ordina anche l'arresto immediato di almeno 20.000 cubani ritenuti oppositori del regime. Poi, nelle ore che seguono, non resta che attendere lo sviluppo della situazione. 17 aprile. All'alba, 1.500 uomini sbarcano sulla Baia dei Porci. Esuli cubani, mercenari statunitensi, un centinaio di pregiudicati e alcuni sacerdoti. Fidel assume personalmente la difesa dell'isola. Circondati dall'esercito cubano, bombardati da terra e dall'aria, gli invasori non hanno alcuna probabilità di successo. La Baia dei Porci fu un punto di svolta determinante, decisivo. La credibilità di Castro, il suo peso a Cuba e in America Latina ne uscirono decisamente rafforzati. Mai come allora la sua rivoluzione apparì altrettanto salda. Castro era riuscito in quello che nessun altro leader latinoamericano era mai riuscito a fare: vincere una sfida decisiva, voluta e appoggiata dagli Stati Uniti. Era la voce di Brian Latte, l'analista della CIA. La fallita invasione del Baia dei Porci, dunque, per Castro è un successo clamoroso. Ma il leader massimo sa che la sfida con gli Stati Uniti non finisce qui. Infatti Cuba sta per diventare il teatro di una nuova guerra, e questa volta potrebbe essere una guerra nucleare. È il 14 ottobre del 62. Alcune foto scattate dagli aerei spia U-2 rivelano che i sovietici stanno costruendo a Cuba delle basi per missili balistici, in grado di colpire gli Stati Uniti. Fidel non voleva i missili nucleari. I cubani chiedevano carri armati, missili terra-aria e magari, forse, anche un po' di soldati sovietici. Quando però arrivarono i missili, Fidel ne comprese l'importanza. Gongolava nel vedere i gringos terrorizzati da quegli ordigni. Nei 13 giorni che seguono, il mondo intero si trova sull'orlo di una guerra nucleare. Quei missili che avrebbero dovuto difendere Cuba hanno ottenuto l'effetto opposto. Ora, sull'isola, incombe il rischio di un'imminente invasione americana. 27 ottobre 1962. Castro detta all'ambasciatore sovietico Alexeyev una lettera indirizzata a Khrushchev. Dal racconto dello stesso Alexeyev, Fidel gliela fece riscrivere una decina di volte. Ciononostante, anche nella stesura definitiva, la lettera aveva toni accurati. In sostanza, Fidel diceva a Khrushchev che se l'Unione Sovietica fosse stata costretta a usare le armi nucleari per difendere il mondo socialista e se questo avesse comportato il sacrificio di Cuba, lui era pronto. Castro era giunto alla conclusione che le alternative per Cuba erano due: essere distrutta oppure essere distrutta per un motivo, per una buona causa. La reazione di Khrushchev fu: Castro è un pazzo. Mi sta chiedendo di far saltare il mondo per aria. Abbiamo sentito le analisi dello scrittore Timothy Naftali e dello storico James Blight. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. L'accordo tra Mosca e Washington taglia completamente fuori Cuba. Per non rimanere schiacciato, Fidel Castro capisce che deve ritagliarsi un ruolo diverso. Alimentare le speranze rivoluzionarie dei popoli di tutto il mondo. Il 3 gennaio del 66 Fidel Castro ribadisce il suo impegno internazionalista antiimperialista davanti a una platea di rivoluzionari di tutto il Terzo Mondo. Fidel era impegnato in un movimento mondiale per rovesciare i governi ovunque, da Zanzibar a El Salvador, dal Nicaragua a tutta l'Africa centrale. Interveniva con aiuti in Vietnam, in Libia, in Algeria, in Siria. Dappertutto, a Cuba e in altre parti del mondo, c'erano campi di addestramento per guerriglieri. Ma nessuno negli anni 60 e anche 70 aveva idea di dove avrebbero potuto portare le avventure e le ambizioni di Fidel. Ora sì che la storia dovrà prendere in considerazione i poveri d'America. Mentre Castro costruisce un movimento rivoluzionario mondiale, l'argentino Che Guevara ne diventa il simbolo vivente. Hanno deciso di cominciare a scrivere essi stessi per sempre la propria storia. Perché questa grande umanità... Idealista e persuasivo, l'affascinante Che Guevara si è conquistato una reputazione e un seguito, secondi solo a quelli di Fidel. Il fatto è che a Cuba, negli anni 60, non c'era abbastanza spazio per due personalità ingombranti come quelle di Fidel Castro e di Ernesto Che Guevara. E ad andarsene fu il Che. Fidel aveva con Che lo stesso tipo di rapporto che aveva con chiunque altro. Un giorno gli servivi e un altro non gli servivi più. Il Che disse a Fidel: voglio organizzare l'addestramento della guerriglia in un altro paese. Fidel rispose: se è quello che vuoi. Novembre 1966. Travestito da uomo d'affari, Che Guevara arriva nelle Ande boliviane. Insieme a una piccola banda di cubani, spera di innescare una rivoluzione che trasformi le vette andine in una Sierra Maestra. Bolivia, luglio 1967. Prevalgono gli aspetti negativi, tra cui il fatto che non siamo riusciti a prendere contatto con l'esterno. Ormai siamo rimasti solo 22 uomini, tre dei quali inabili, me compreso. Per mesi il Che lamenterà di essere stato tradito dal Partito Comunista Boliviano e di essere stato abbandonato anche da Cuba. La cosa interessante sul Che in Bolivia era che si trovava sulle Ande orientali, in una zona facilmente accessibile da parte di chiunque avesse voluto raggiungerlo. Fidel sapeva perfettamente dove stava Guevara, ma tagliò tutti i contatti radio con lui. Io lassù ci andai, parlai con il suo gruppo di guerriglieri. Castro avrebbe potuto mandare qualcuno dal Paraguay, avrebbe potuto mandare qualcuno dalla Paz, la capitale. Invece niente, il Che fu lasciato a vagare. Fu lasciato a vagare in quella giungla d'alta quota. 8 ottobre 1967. Affamato, malato, tagliato fuori dal mondo esterno, Che Guevara viene circondato insieme al suo manipolo di guerriglieri dai Ranger boliviani, un reparto speciale antiguerriglia dell'esercito addestrato dagli Stati Uniti. Che Guevara viene fatto prigioniero e il giorno dopo giustiziato. Le sue spoglie saranno ritrovate e traslate a Cuba solo nel luglio 1997. Con la sua morte Che Guevara diventa un'icona della rivoluzione, ma la sua morte segna anche la sconfitta della linea di Castro dall'inizio degli anni 60. Svanita la prospettiva di una rivoluzione mondiale, Castro torna a dedicare le sue energie alla trasformazione della società cubana. Per il 1970 Castro annuncia il suo progetto più ambizioso. In quell'anno la produzione cubana di canna da zucchero raggiungerà la cifra record di 10 milioni di tonnellate. Viene mobilitata l'intera popolazione, operai delle fabbriche, studenti, casalinghe. Arrivano volontari da tutto il mondo. Vietnam, Corea del Nord, Stati Uniti. Ma per quanto Fidel si dia da fare con il macete, o si prodighi nell'incoraggiare i lavoratori, i cubani non riescono a trasformare il suo sogno in realtà. Invece di 10 milioni, nel 1970 furono raccolti 8 milioni e mezzo di tonnellate di canna da zucchero. Era pur sempre il più grande raccolto di canna da zucchero della storia di Cuba. Ciò nonostante, era un fallimento. L'obiettivo dei 10 milioni non era stato raggiunto. Erano state distrutte le risorse del paese e invece di diventare libera, potente e indipendente, ora Cuba era praticamente sull'orlo del collasso. A questo punto Mosca decide di intervenire. A prendere tutte le decisioni più importanti sarà un consiglio dei ministri forte, d'intesa con il blocco sovietico. e dall'Unione Sovietica arriveranno a dare una mano 10.000 consulenti. Soddisfatta, Mosca concede a Cuba aiuti fino a 6 miliardi di dollari all'anno. Viva Cuba! Per ottenere aiuti economici da Mosca, dunque, Castro è costretto a rinunciare a gran parte della sua indipendenza. Ma ora però può finalmente esportare la sua rivoluzione. Le truppe cubane infatti contribuiscono in modo decisivo alla vittoria del Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola nel 1977. E Castro avrà un ruolo fondamentale anche in un'altra guerra, l'insurrezione sandinista contro Somoza in Nicaragua nel 1979. La vittoria sandinista in Nicaragua fu guidata da Fidel Castro dal quartier generale delle forze speciali di Cuba. Fidel conosceva tutti i movimenti dell'esercito nicaragüense e diceva ai sandinisti dove tendere le imboscate. Il suo apporto fu determinante alla conquista del potere. Fu una guerra diretta da Fidel. È la prima vittoria di Castro nell'emisfero occidentale. Una vittoria che ha atteso sin dal 1959. Settembre 1979, Fidel Castro ottiene la presidenza del Movimento dei Paesi Non Allineati. Un mese dopo è a New York per parlare all'ONU. Tra Cuba e Stati Uniti dunque inizia una nuova crisi. E intanto a Washington dal 1981 c'è un nuovo presidente, Ronald Reagan. E Reagan dichiara guerra al regime castrista, autorizza la CIA a addestrare un esercito di contras per combattere i sandinisti alleati di Castro in Nicaragua, ma denuncia anche la violazione dei diritti umani commesse da Castro. Ad aiutarlo in questa denuncia sono le testimonianze degli ex prigionieri nelle carceri cubane. Come potrei dimenticare i miei tre compagni di cella che sono stati assassinati in carcere? Il primo era Roberto López Chávez. Quando fu imprigionato la prima volta, Roberto Chávez aveva 16 anni. L'altro mio compagno di cella si chiamava Pedro Luis Boitel ed era un leader studentesco che Castro odiava. Boitel cominciò uno sciopero della fame e Fidel Castro ordinò che non gli venisse data l'acqua. Pedro morì di sete 53 giorni dopo. Come loro, centinaia e centinaia di persone sono state assassinate e torturate. Quelle prigioni erano delle vere e proprie macchine di morte. Lo scopo non era solo la privazione della libertà. L'obiettivo del governo era l'eliminazione fisica di tutti i controrivoluzionari. La cabaña, Isla de Pinos, tutte quelle storie. Non ci sono parole per esprimere la sofferenza e l'angoscia. Qualsiasi parola è inutile per descrivere la realtà di quella situazione.